9 in punto, la versione di Oscar. Oh, ed eccoci qua, buon giovedì 1 dicembre. Io persisto con la nota di End, so che molti imprenditori ormai mi mandano a dire: ma devi un po' smetterla, perché questo sembra che noi vogliamo diffondere un'atmosfera di panico, di sfiducia, di depressione. Non è così, cari amici, non è proprio così. Noi vogliamo semplicemente, e io, perché rispondo io di quello che faccio, sono convinto che bisogna contribuire a diffondere la consapevolezza del rischio in cui il nostro paese, come potenziale detonatore dell'euro e oramai l'intera euroarea, si è posta per la miopia, la deliberata cecità, la tendenza alla menzogna, la proclività all'ignoranza di chi in questi anni ha condotto il nostro paese e ha anche responsabilità pesanti a livello europeo sulla condizione in cui ci approssimiamo a due date che sono molto importanti. C'è quella del 5 dicembre, perché il 5 dicembre sono promessi i provvedimenti che ci siamo impegnati, dopo mesi di continui esami non passati in Europa, ad assumere con questo nuovo governo di emergenza guidato dal professor Monti. Ed è iniziata la consueta danza nel dire questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo mai. Ma cosa? Ma come? Ma dove? Ma quando? Tutti cadono sempre dal pero su queste misure, e dire che sono sempre le stesse, però tutti continuano a cadere dal pero nel nostro paese. Dopodiché la data decisiva sul serio è quella del 9 dicembre, l'Eurovertice straordinario, al quale bisogna che la politica, nel rispetto dello spirito con cui abbiamo fatto l'Europa e traendo anche lezione dalle due eurodisastri precedenti di cui siamo reduci, perché l'euro è figlio di due esperienze traumatiche, e di volta in volta queste esperienze traumatiche, che ponevano il disegno europeo di fronte a un baratro, sono state superate facendo un passo avanti e non un passo indietro. Poiché, lo ricordo a tutti, se andate a sfogliare i giornali, quando esplose il serpente monetario europeo trovereste toni quasi analoghi a quelli di oggi. Quando poi al serpente monetario si sostituì l'ESM, la seconda fase dell'unione monetaria, furono proprio la lira e la sterlina a farli esplodere nel 92-93, e anche in quel caso si disse tutto per aria. L'euro, il terzo stadio del progetto, nasce proprio facendo un ulteriore passo avanti di fronte a quei fallimenti. La differenza, certo, è che siamo in un mondo globalizzato, così interconnesso, che l'Europa questa volta si assumerebbe una responsabilità terribile, doppia, perché non solo di fronte alla propria storia, a se stesso e al motivo per cui si è fatta l'Europa e l'euro, ma anche come fomite e trasmettitore di contagio in tutto il mondo, e quindi bisogna sperare che non avvenga. Io sono abbastanza fiducioso, per quanto sia molto scettico sulle possibilità dei politici. Vediamo, prima di arrivare all'argomento del giorno, la consueta rassegna stampa quotidiana dai maggiori giornali, dai maggiori giornali europei. Mi ha molto interessato la lettura di un articolo di un personaggio che è stato fondamentale nei primi anni della Banca Centrale Europea. Stiamo parlando di Ottmar Issing. Ottmar Issing è stato il primo designato dalla Bundesbank alla testa della BCE quando è stata guidata da un olandese nei primi anni, e come chief economist della BCE è stato il vero cane da guardia nei primi anni, che è stato decisivo nel board della BCE per affermare un track record più conservativo in materia di politica monetaria rispetto a quella della Fed, che era molto molto molto più lassista. Ottmar Issing torna a intingere la sua penna nel calamaio e scrive oggi sul Financial Times che malgrado i politici continuino a dire che la Banca Centrale Europea deve diventare un lender of last resort, un prestatore di ultima istanza, Ottmar Issing dice che evidentemente non hanno mai letto il famoso libro di Walter Bagehot, quello del 1873, che ha fissato le basi, Lombard Street, di che cos'è e che cosa non è una banca centrale, perché Ottmar Issing scrive: già oggi la Banca Centrale Europea svolge in definitiva questa funzione, accetta securities dal valore totalmente col punto interrogativo come collaterale senza fiatare, e quindi in quanto tale è prociclica, dice, né tantomeno impone tassi di interesse penalizzanti a chi non fa il proprio dovere, quindi già si presta più che abbondantemente ad essere a svolgere una funzione anticiclica e non prociclica, scusatemi. Ising aggiunge che la Banca Centrale Europea non può e non deve andare oltre questi limiti, perché altrimenti le conseguenze di queste violazioni ai trattati del suo statuto sarebbero incalcolabili. Insomma, chi volesse affinare il ragionamento tecnico per cui i tedeschi continuano a dire di no su questo, ha in Otmar Ising, diciamo, la fonte autentica dell'ortodossia monetaria, del disegno fondatore dell'euro. Dopodiché il Portogallo è giunto all'approvazione del suo bilancio 2012 solo attraverso terribili sforzi con le forze politiche e per raggiungere l'obiettivo di contenimento del deficit entro il 5,9% del PIL. È stato necessario ricorrere a un prelievo straordinario dai fondi pensioni dei dipendenti delle banche per 6 miliardi e riaggiungere una tassa del 5% a fine anno sui bonus di aumento degli stipendi, che secondo le previsioni iniziali invece dopo 2 anni di tartassamento straordinario fiscale erano lasciati fuori dai prelievi straordinari. Ecco, il Portogallo ci fa capire, avendo abolito 14esimo, 13esimo eccetera, qual è la portata e la pesantezza del regime necessario ai paesi per mettersi in riga, qualcosa di molto molto lontano rispetto alle misure di cui si parla in Italia, che pure fanno strappare i capelli a tutti quanti, come se si trattasse, come al solito, di chissà che cosa. E non lo dico per mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori che maturano i diritti per i trattamenti di anzianità, dico però che forse capire che cosa abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto dagli altri paesi con problemi in questi ultimi 2 anni, ci farebbe bene invece che guardare solo il nostro ombelico, la nostra punta delle scarpe. La Bild, oggi annuncia una cosa che mi ha molto interessato, perché attribuisce alla cancelleria tedesca, ma anche all'Eliseo francese, la convergenza su un disegno in vista del 9 dicembre che mira a un punto di cui non siamo abituati tanto a occuparci, cioè quello di non spaccare troppo, di non approfondire troppo il fossato tra l'euro area e l'Unione Europea a 27 più ampia. Da questo punto di vista la BID scrive come infatti ai meccanismi di governance e di definizione delle politiche di bilancio più coesi e più invigilati dal centro dell'euro edificio, che dovrebbe costituire la parte core dell'accordo politico all'euro consiglio, la Merkel e Sarkozy vorrebbero aggiungere anche la Polonia quantomeno, e molto probabilmente anche la Svezia, quindi paesi che non hanno l'euro, ma paesi che i tedeschi e i francesi additano come nuovi membri forti, non dico in sostituzione degli euro deboli, ma che servono a complemento immediato dell'accordo politico. E questo è molto interessante, perché sapete che la Polonia, quando è esploso il caso greco, ha automaticamente sospeso la domanda di adesione all'euro, dicendo un euro così debole non ci interessa. Oggi ci sarà l'atteso intervento del presidente francese sull'Europa in un discorso a Tolone, ma l'Eseco ci informa che è difficile aspettarsi molto, perché l'Eliseo non ha capito bene su che basi andrà l'Eurovertice del 9 di dicembre. È interessante sul Financial Times Deutschland un articolo di Wolfgang Preußl che risponde alle polemiche che abbiamo ieri riportato intorno alla lotta tra francesi e tedeschi su chi deve essere il nuovo chief economist alla BCE. Wolfgang Preußl, giustamente secondo me, respinge queste polemiche come appropriate per un bar che commenta una partita, ma certamente non per commentare l'attribuzione di un posto. Per quanto rilevante sia, non può dipendere da questo il sostegno o meno all'euro. Infine ha parlato Helmut Kohl in una delle sue rarissime apparizioni pubbliche, e la distanza tra il rilievo, scusatemi, io volevo dire l'intelligenza, ma non sono io nessuno per misurare l'intelligenza, ma insomma, tra ciò che Helmut Kohl pensa della situazione attuale e quella che emerge invece dalle cronache che vi ho richiamato è questo. Ieri ha rilasciato una frase dicendo: vorrei che fosse chiaro a tutti, quando noi parliamo di Europa più o meno unita e di un euro da difendere o da compromettere, noi non stiamo parlando di altro che di un'Europa che ricada in tutto e per tutto nel rischio di una guerra. Credo che Kohl sappia di che parli e c'è un grande voce di responsabilità anche a nome del passato tedesco nelle sue parole. Ma oggi parliamo di un altro tema, e il tema di cui parliamo oggi ha a che vedere esattamente con le difficoltà che la politica europea italiana continua ad avvertire nei confronti esattamente di ciò che viene a lei richiesto per ottemperare alle condizioni di virtù nella finanza pubblica e di produttività nell'economia privata, senza le quali l'edificio dell'euro, costruito ponendo una distanza deliberata tra il torchio monetario e le responsabilità nazionali, come abbiamo visto, non funziona. E uno degli argomenti ricorrenti, l'abbiamo detto, è quello della sospensione della democrazia da parte dei poteri forti, dall'altra è quella dei politici che guardano in Italia il governo dei professori e dicono: voi avete più conflitti di interesse di quanto non ne avesse uno immenso Berlusconi. In realtà, perché quello di Berlusconi tutte se ne occupavano, mentre di quelli di Passera o di Ciaccia sottosegretario, dei banchieri non se ne occupa nessuno, perché hanno timore del potere di Banca Intesa. E infine analogo argomento vale da parte di tutti nei confronti dei vincoli europei, perché si dice: ma questa poi è la lobby degli eurocrati, la lobby dei poteri forti. Allora, su questo tema delle lobby abbiamo, oltre che chiesto la vostra opinione, telefonate su questo, abbiamo approfittato del fatto che ci sono diversi libri usciti in queste settimane, in questi ultimi due mesi, esattamente su questo tema, e allora il mio invito è a leggerli, e abbiamo qua intanto chiamato, in attesa delle vostre telefonate, gli autori di questi libri per sapere da loro come la pensano, visto che stanno del mestiere, per così dire, e lo dichiarano senza nessun problema, come la pensano su come se la rappresentanza di interessi, il lobbismo, sia o meno un attentato alla democrazia, o sia invece, e questa è la mia opinione, un meccanismo attraverso cui la democrazia poi deve funzionare. Come si vede nel post Berlusconi, il conflitto di interesse è permanente nella società complessa. Il mio rimedio è che esso debba essere agli occhi di tutti chiaro, trasparente nei suoi meccanismi di responsabilità. Io non ho nessun problema se un grande banchiere rinuncia a un pacco di quattrini come Corrado Passera e per senso di responsabilità pensa che sia venuto il momento di una milizia civile, che mi auguro lunga a questo punto, ve lo dico fuori dai denti, perché la persona è competente a mio giudizio. Basta che sia chiaro a tutti noi che le decisioni che assumerà nei sei ministeri, sono tre dichiarati ma in realtà sono sei, che si trova a coordinare, tutti i ministeri dell'attività economica, della spesa, i più radicati nel territorio italiano, quindi una architrave fondamentale per tentare di, con la più crescita, di smuovere il guaio italiano. Basta che sia chiaro a tutti noi che a quel punto guarderemo con attenzione se i provvedimenti che assumerà possano ricadere in una sfera di interessi della banca di cui era amministratore delegato, insomma, e che ha costruito negli anni. Questo è il mio rimedio. Quali sono questi libri? C'è innanzitutto un libro che si intitola 20 anni da sporco lobbista, e abbiamo qua il suo autore. L'autore è fondatore di appunto di una impresa che fa rappresentanza di interessi, che si chiama FB Associati, e lui si chiama Fabio Bistoncini. Buongiorno e grazie a Fabio Bistoncini. Grazie, buongiorno. E poi abbiamo con noi Francesco Galietti. Francesco Galietti è stato consigliere al Ministero dell'Economia dal 2008 al 2011, e quindi il suo mestiere è la consulenza strategica. Scrive di geopolitica economica su diverse testate, tra cui Il Foglio, e il libro che ha scritto si intitola Alta pressione, perché in Italia è difficile regolare le lobby, ed è qui con noi anche lui. Buongiorno e grazie Francesco Galietti. Buongiorno. Allora, Bistoncini, lei che dice? Tutta questa enorme coltre di fumo polemico intorno agli interessi e ai conflitti di interessi, che in Italia sarebbero stata la grande complesso di colpa, la colpa originale, il peccato originale solo di Berlusconi, e poi scopriamo che è anche dei successori. Ma dall'altra parte si dice: l'Europa è una cosa in cui contano le grandi lobby e noi poveri italiani ne siamo vittime. Quanto di queste sono palle, e che cosa c'è di vero invece, secondo lei, dopo anni e anni in cui lo fa per mestiere, scrive un libro in cui traccia un onestissimo bilancio e avanza anche alcune proposte in materia? Sì, allora parto dall'Europa. In Europa, se noi siamo deboli come sistema paese, e quindi è tutta colpa nostra, come rappresentanti politici, ma come anche business community italiana, che negli anni non ha saputo costruire un sistema di alleanze forte per influenzare le decisioni di Bruxelles. Quindi è una colpa di tutto il sistema. Io, facendo lobby spesso a Bruxelles, mi sono trovato a sostenere interessi italiani contrapposti ad interessi di altri paesi, ovviamente, dove gli altri riuscivano ad avere fare il cosiddetto gioco di squadra, che è una parola tanto abusata, un'espressione tanto abusata, ma effettivamente c'è un forte raccordo tra i governi nazionali, i funzionari che stanno a Bruxelles, che però hanno una nazionalità, anche se poi sono dei funzionari europei, però provengono dai singoli paesi dell'Unione, i parlamentari e gli interessi particolari. Ecco, noi, se devo dare una colpa al nostro paese, quindi non è che esistono poteri forti, siamo noi che non abbiamo voluto avere un ruolo primario anche nella gestione degli interessi a Bruxelles. Abbiamo fatto un po' un passo indietro ed è un peccato, perché negli anni, quando mi sono affacciato ormai tanti anni fa a Bruxelles, uno dei più forti gruppi di interesse presenti a Bruxelles era un gruppo italiano, la Ferruzzi, che nel campo agroalimentare è stato un colosso che ha influenzato, a nostro vantaggio ovviamente, la politica agricola europea. E quindi lì, diciamo, per quanto vero possa essere che ci sono interessi forse meglio rappresentati, era la regola del gioco e noi siamo stati stupidi a non essere altrettanto bravi, per così dire. Cosa significa, per capire, ovviamente gli addetti ai lavori sanno che c'è un tentativo di regolamentazione che va avanti da tempo, a Bruxelles c'è una specie di albo e così via, in realtà che cos'è che manca all'Italia per essere nelle commissioni tecniche a Bruxelles al posto giusto e nel numero giusto? È un difetto dell'Italia pubblica o è un difetto complessivo dell'Italia pubblica e privata, delle grandi imprese, delle grandi banche, eccetera? Guardi, è un difetto proprio nostro, io direi generale. È iniziato, io sono contrario a dare la colpa solo alla politica. Io penso che una colpa riguardi anche la nostra business community, le nostre aziende, la nostra pubblica amministrazione, che hanno sempre visto in passato Bruxelles come un qualcosa di distante e lontano. Da lì si mandavano, era un po' diventato il cimitero degli elefanti, si mandavano in Europa i politici che ormai erano arrivati a fine carriera o comunque quelli che si volevano esiliare, ma la stessa cosa per i funzionari. Io ho fatto negli anni... Ho sentito questa battuta che mi ha fatto male come italiano, ovviamente. Gli italiani hanno preferito avere 30 posti da uscire in Parlamento rispetto a 3 di funzionari in commissione. Perché ovviamente non avevamo forse capito che bisognava presidiare alcuni, diciamo, sistemi, gangli decisionali, perché l'Europa avrebbe aumentato la propria capacità pervasiva di definire delle normative e di definire delle policy. Più c'è il vizio tutto nostro di pensare che avremmo potuto, cosa che è stata fatta per anni, ma poi pian piano i trattati ce l'hanno impedito, riadattare le direttive nel momento del ricepimento. E quindi un po' la furbizia, il tentativo di dire, vabbè, decidono una cosa, poi tanto al momento del ricepimento in Italia faccio una giustatina. Non è più così. E anche lì, invece, è un sistema competitivo. Perché gli altri funzionano? Non perché sono più intelligenti di noi, perché loro hanno costruito una rete di consultazioni, per cui sembra strano sentirlo dire, però c'è il governo inglese, faccio un esempio, che si fa dire dalla sua delegazione che sta a Bruxelles quali sono gli argomenti in agenda, quali sono gli interessi che vengono coinvolti, gli interessi britannici che vengono coinvolti, chiama le aziende attorno a un tavolo, definiscono una linea comune laddove è possibile e poi ciascuno per il suo compito avvisa gli interlocutori di quello che è la posizione su un determinato dossier, su un determinato argomento, una determinata issue. Ecco, a noi manca, o è mancato, poi tranne qualche rara eccezione ovviamente, questa capacità di coordinamento, di verificare i nostri interessi sulla base dell'agenda europea. Galetti, la responsabilità, vista con l'occhio di ha fatto consulenza anche nel mondo pubblico come lei, questa cosa che è un punto di fondo anche secondo me della scarsa capacità dell'Italia di essere presente, di fare riflessione puntuale su quali risorse umane a nome di chi mettere nei posti più delicati in cui si decide l'Europa, Secondo lei la responsabilità preminente di chi è? Non nomi e cognomi, ma è un problema di classe dirigente, di mancata percezione delle questioni internazionali. Faccio un esempio, per la comunità delle imprese italiane ovviamente, per esempio, la direttiva europea che stabilisce i termini ordinari, ma perentori in realtà, di pagamento entro i 30 e 60 giorni sarebbe un toccasana, sarebbero punti e punti di PIL, di margine di liquidità su cui poter contare, anni che lo raccontiamo e anni che raccontiamo delle legittime perplessità della Ragioneria Generale dello Stato nell'ottemperare a questa direttiva che noi abbiamo recepito pochi mesi fa, perché farebbe emergere debito pubblico nuovo. Era ovvio che essere nel momento giusto presente laddove la direttiva entrava nella sua fase finale prima della sua definizione, battendosi perché ci fosse una clausola esplicita già nella direttiva che consentisse ai paesi all'atto del suo recepimento un meccanismo di emersione del debito pubblico che questo comporta, anche solo rendendo scontabile le fatture emesse dal pubblico, un meccanismo di sconto in banca, ma che entrasse nel totale del debito pubblico ma non facesse testo nel deficit per anno, su cui ovviamente c'è un giro di vita dell'attenzione proprio in questi due ultimi anni dopo la crisi greca, ecco, ci avrebbe fatto la differenza, perché avrebbe consentito che quei 60-70 miliardi di euro di liquidità arrivassero alle imprese con minori preoccupazioni altrimenti legittime del tesoro della Ragioneria Generale dello Stato. Ma quel passaggio non c'è, l'Italia non c'era quando non se n'è accorta, o comunque non era presente quando questa direttiva è stata scritta, ed ecco il guaio. Secondo lei è un problema trasversale, come dice Bistoncini, o la politica forse qualche problema ancora ce l'ha, in particolare se in Europa non ci siamo al momento giusto? Il problema è senz'altro trasversale. Va detta una cosa che finora è stata un pochino taciuta. Il ruolo presente in questa fase storica non è della politica intesa come Parlamento, perché il peso dei partiti rispetto alla Prima Repubblica è relativamente contenuto, è concentrata a livello di istituzioni di governo, ministeri e in una certa qual misura anche authorities. Nei palazzi, negli uffici di gabinetto lavorano soggetti che sono dei veterani delle istituzioni, spesso si tratta di magistrati amministrativisti che hanno competenze di quel tipo, sono uomini di legge abituati a scrivere e non sempre hanno, non potrebbero d'altra parte averlo, un tipo di visione economica che serve per capire le partite in gioco. Nel caso che cita lei, quello dei ritardi sui pagamenti e in un senso più ampio della scontabilità, della bancabilità dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione, la disfunzionalità è evidente. Tenga presente che da anni si sa che la massa di crediti vantati verso la pubblica amministrazione, in particolare per esempio verso le ASL, cresce ed è una strozzatura verso tutti i soggetti che lavorano con la pubblica amministrazione, che si trovano anche tra l'altro a dover anticipare l'IVA, a vedersi pagare le fatture della pubblica amministrazione con tempi epici e a non neanche potersi farsi anticipare in banca. Da questo punto di vista c'è la tendenza diffusissima a ragionare per zolle. Chi è deputato a lavorare sulle fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione, per esempio la SOGEI, l'Agenzia delle Entrate, preside unicamente quella zolla. Chi è deputato a guardare gli obblighi relativi al rispetto delle direttive comunitarie, il relativo ministero, il Ministero dell'Economia e l'Avvocatura dello Stato, ragiona tenendo presente un discorso di ritardi, sanzioni e interessi. È così che poi sfugge alla fine, naturalmente nel quadro composito, l'emergenza di alcune delle priorità rispetto a tutto ciò allineato per Zolle. Quindi capisco bene qual è una delle ragioni di fondo per cui poi alla fine non si non essendo organizzato il meccanismo per far emergere priorità al tavolo di chi decide, alla fine poi al momento giusto la priorità noi non ci siamo. Quindi questa è una spiegazione funzionalista. Guardate che le spiegazioni funzionaliste sono sempre quelle che colgono le ragioni per cui le organizzazioni non funzionano. E una delle ragioni per cui l'organizzazione pubblica non funziona non è tanto e solo la dotazione di capitale umano di chi le dirige, ma sono proprio le ragioni intrinseche a come le sono state organizzate e stratificate per tempo. Quindi quella che vi potrà sembrare, mi colpisce perché questa spiegazione del dottor Galietti secondo me è la spiegazione più vicina al vero, anche se so che soddisfa poco tutti coloro che ritengono invece che basta cambiare colore politico del ministro pro tempore per cui tutto funziona miracolosamente meglio. Come vedete non è così, perché c'è un problema di organizzazione sotto. Allora, su lobby, poteri forti, tecnici che spodestano la democrazia, oppure democrazia che invoca la propria sovranità politica e del sistema dei partiti, solo quando si tratta però di fare deficit e debito aggiuntivo, poi naturalmente si invocano le banche centrali a risolverlo e a monetizzarlo. E l'errore che vedo che fanno anche persone di cui ho grande stima e rispetto, come Giuliano Ferrara, io continuo a pensare che bisogna spiegare alla gente perché l'euro è stato fatto così, non che esistano i cattivi tedeschi con l'elmo chiodato, perché questa è una semplificazione a cui capisco ricorrano altri tipi di giornali vicini al centrodestra, che hanno sempre l'idea che ci sia qualcuno dietro l'angolo, che ci sia sempre ovviamente il semplificatore di turno che vuole comprarci a prezzi di svendita. È ovvio che siamo tutti, viviamo tutti nel mondo reale, non viviamo di illusioni e di idealità. Il mondo reale è fatto di conflitto di interessi, ma gli conflitti di interessi bisogna averli presenti, la loro complessità, devono essere trasparenti, e in questo sta la loro autocura, che poi si giudica in concreto con misure ex post, con il voto, più che con misure cautelari ex ante, come pensano con tutti coloro che invece sono convinti che si può realizzare l'Eden in terra. Sentiamo come la pensano alcuni degli ascoltatori su questa cosa del conflitto di interessi, dei poteri forti e delle lobby. Giulio dalla provincia di Roma, prego Giulio, come la pensa? Guardi, io all'inizio volevo fare l'esempio di Finmeccanica per dimostrare come l'Italia dal punto di vista economico è governata dai cartelli, dalle corporazioni e dai monopoli di Stato, perché una grande impresa statale era gestita da marito e moglie. Però siccome qui dobbiamo fare un certo dibattito culturale dal punto di vista economico, io gli voglio fare questa domanda, no? Secondo me l'economia italiana l'economia mondiale sta di fronte a un bivio: o accettiamo l'insegnamento keynesiano che agisce sulla domanda aggregata, quindi più spesa pubblica, ruolo centrale della banca che deve stampare più moneta oppure deve emettere più spesa pubblica attraverso il collocamento di titoli in Stato, oppure accettiamo la lezione di Milton Friedman della scuola monetarista, dove lui agisce sul versante dell'offerta. Però io proporrò questa domanda, voglio fare a lei che è un economista: ma secondo lei il dibattito scientifico proprio di dottrina economica è avanzato oppure ormai è fermo su vecchi principi che non riescono a spiegare la complessità del mondo attuale? Grazie, arrivederci. Guardi, se questa è la questione, cioè l'ultima, io da modesto cultore posso rassicurarla, nel senso che chi ha voglia di leggere e studiare trova un'infinità di papers, ricerche e quindi contributi teorici in punta di dati empirici che vengono interpretati dei sostenitori delle più diverse scuole, che proprio sul grande argomento della crisi, come è nata dal meccanismo di intermediazione finanziaria ad alta leva e bassa congruità patrimoniale e come viene diversamente affrontata nel mondo, quindi il sistema americano con Fed e spesa pubblica, il sistema europeo nel sistema asiatico, non fanno altro che affinare i contributi e le impostazioni delle diverse scuole economiche, altro che se c'è un fior di dibattito in corso. Il problema è naturalmente che questo dibattito stenta molto ad apparire nel mainstream, nell'informazione generalista, anche in quella specializzata, perché è un dibattito complesso che ha bisogno di almeno dell'ABC, delle nozioni teoriche di economia e di teoria economica da una parte, e dall'altra figuriamoci quanto fatica poi ad arrivare sui tavoli e nella testa dei politici. È più facile che arrivi invece sui tavoli e nella testa dei regolatori bancari e dei mercati finanziari, perché quelli devono essere direttamente collegati, avere un tubo sempre aperto con i contributi dell'economia teoretica. I politici stentano molto, i politici capiscono solo le frasi per semplificate, i politici capiscono ciò che c'è, si rivolge alla pancia della gente, per questo impugnano le bandiere nazionali. Mi ha colpito molto che ieri Hollande, il capo socialista, in teoria i socialisti in Francia all'opposizione passano per gli più euroentusiasti rispetto all'UMP, al partito di cui è leader Nicolas Sarkozy, molto nei guai nei sondaggi. Ieri Hollande, di fronte al fatto che si vada a un Consiglio europeo in cui si adottano procedure di codecisione dei bilanci con una bollinatura, un po' come la Ragioneria Generale dello Stato deve dare la bollinatura preventiva alle leggi finanziarie fatte dai politici a livello italiano, ha pronunciato un tonitruante: jamais, mai la Francia si piegherà a questa cosa tedesca. E allora capite che se i politici fanno questa commedia della sovranità ferita e indignata, la piantino poi di volere una banca centrale però che fa come la Fed, perché se vogliono continuare a essere titolari del potere di deficit e di debito, allora hanno sbagliato a stare nell'euro in queste condizioni, si pigliano la responsabilità di farlo saltare e tornano alle loro banchette centrali, che nel caso italiano che cosa dovevano fare? Dovevano emettere un fracco di moneta che i politici tendono a credere sia senza prezzo, invece il prezzo è naturalmente l'inflazione, è un prezzo che pagano tutti, il prezzo è la svalutazione degli asset reali di risparmio e di patrimonio, e quel prezzo lo pagano tutti. Basta spiegarlo agli italiani che il rimpianto della liretta significa una botta del 30, 40, 50% in meno di tutto quello che hanno. Ecco, basta spiegarlo, perché io a quel punto, dopo tutto quello che mi hanno cavato dalle vene per le tasse, se mi arriva pure questo, non escludo davvero di fottermene anche al codice penale e di prendere un forcone, perché a un certo punto c'è un limite oltre il quale il diritto di cittadinanza non è mica equivalente a quello del diritto del vecchio suddito di farsi spodestare da un monarca che vuole divertirsi solo a mie spese. Perdonate. Allora, sentiamo Alessandro da Ascoli. Alessandro, come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, io ho sempre apprezzato la sua lotta nei confronti di questa tassazione feroce, ma come vuole che non possa essere così? Ovunque ci giriamo vediamo pochi produttori che producono veramente ricchezza e si battono sul mercato con la concorrenza, e molti famelici, a dirla con Murray Rothbard, consumatori fiscali al netto, cioè da una parte ci sono i contribuenti al netto e dall'altra ci sono i consumatori fiscali a netto, cioè tutti quelli che vivono di spesa pubblica. Poi ci mettiamo anche ci mettiamo anche le lobby bancarie, le lobby finanziarie, che non fanno altro che essere in combutta con i politici per scambiarsi favori, per farsi leggi ad uso personale, e quindi è questa la grande contrapposizione mondiale. Noi vediamo che i produttori diventano sempre pochi e saranno sempre più tassati. Chiarissimo, Alessandro, lei chiarissimo. Estendiamo oltre al grande Murray Rothbard ad altri le letture, se no qualcuno che ci ascolta ci prende come frequentatore di un ristrettissimo club non troppo rappresentativo, diciamo, nel nostro paese. Sto dicendo, ottime letture quelle di Murray Rothbard. Ora, come avete ascoltato, cari Bistoncini e Galietti, nelle telefonate è ricorrente il fatto che poi la rappresentanza interesse dei lobby in Italia che cos'è? È combutta con chi fa spesa pubblica, cioè serve in realtà a garantirsi l'accesso privilegiato a nicchie in cui la cui somma fa poi il totale della spesa pubblica così tanto elevata e il deficit. Ecco, alla fine il vostro mestiere, che voi difendete invece come un architrave della democrazia ben organizzata e meglio efficiente, non sarebbe altro che un canale di autotutela per chi ha possibilità di organizzare voice al potere politico e in cambio ovviamente propone favori impropri. Questa è l'immagine da cui ripartiamo dopo il minuto dedicato all'informazione stradale. Mentre riparte naturalmente The End dei Doors, Bistoncini, come si fa a ribaltare questa immagine come se voi foste in realtà i difensori delle cavallette e un tramite di contagio invece che degli onesti e trasparenti rappresentanti di i diversi mille interessi, il cui gioco di rappresentanza deve essere nient'altro che la traccia dell'ordito poi di che cos'è una democrazia in un mondo complesso, cioè la rappresentanza degli interessi, la cui sintesi e le cui scelte di priorità costituiscono obiettivamente l'articolazione di che cos'è il politico. Lei che dice? Mi verrebbe di fare una battuta, scrivendo un libro, cosa che ho fatto ovviamente, cioè a parte le battute, cercando di spiegare che il problema non è tanto la lobby, perché è un problema di scarsa informazione. Le lobby non sono altro che gruppi di interesse. Il lobbying è una tecnica di trasferimento di queste istanze presso il processo decisionale, presso il decisore pubblico. Allora, sono i gruppi di interesse che rappresentano articolazioni della società. Non è vero che tutti i gruppi di interesse vogliono maggiori spesa e contribuiscono ad aggravare il bilancio dello Stato. Questa dipende dal dibattito, dipende dai gruppi. Allora, in Italia, colpa secondo me anche un po' della politica, un po' dei gruppi di interesse, un po' dei media, si è sempre designato il lobbista come colui che difende solo alcuni interessi particolari che poi determinano l'aumento della spesa, che resistono al cambiamento, che fanno fallire le liberalizzazioni. In realtà il lobbying è neutro, dipende dalla capacità dei gruppi di interesse, dalla quantità dei gruppi di interesse a definire l'agenda politica. Quindi più competizione tra lobby, tra gruppi di interesse, garantisce una democrazia migliore. Uno dei suoi ascoltatori ha citato Finmeccanica. Allora, io su questo, premesso, non lavoro per Finmeccanica, non ho mai lavorato per Finmeccanica professionalmente, eccetera. Però io ho studiato il caso Finmeccanica, attenzione che quando Finmeccanica va all'estero ed è uno dei gioielli in quel settore, possiamo dire merceologico, in quel business, e cioè la difesa, che l'Italia può vantare nel mondo, quando va all'estero compete, è abituata a competere in mercati difficilissimi con altri grandissimi player. Quindi non è vero che Finmeccanica è un problema per l'Italia. Finmeccanica possono essere alcuni atteggiamenti di Finmeccanica all'interno di questo paese o nelle relazioni con questo processo decisionale, perché nel mondo Finmeccanica invece fa bene all'Italia, ha fatto bene a questo paese. Diciamo che noi dedicheremo una puntata a Finmeccanica, perché è un argomento che mi appassiona molto, perché le tecnologie di difesa e sicurezza sono uno dei ganghi vitali delle tecnologie avanzate, hanno enorme ricadute su tutta l'economia. Noi siamo riusciti con la costanza e la capacità di chi ha guidato negli anni quel gruppo, ed è un management di primo livello dal punto di vista tecnico. Non sto difendendo tutti, non sto difendendo in questo momento Guarguagnini, la moglie Borgogni, certo. Sto dicendo il complesso del management in quelle imprese. Siamo riusciti a entrare in grandissimi mercati del procurement della difesa e della sicurezza, come la Gran Bretagna con gli elicotteri, come gli Stati Uniti, cioè abbiamo fatto cose di fronte a quali francesi e tedeschi, se potessero, ci strangolerebbero, perché loro non ci sono riusciti. Temo che quello che sta avvenendo in questo, da un anno e mezzo a questa parte, io l'ho spiegato mille volte, il ministro controllante all'emergere di queste robe doveva mettere in sicurezza le imprese, secondo me è stato un grave torto del Giulio Tremonti non averlo fatto. Non mi interessa se c'era una lotta tra Tremonti e Letta dietro, perché queste sono sciocchezze. Un ministro deve sapere che quando c'è un gruppo da 19 miliardi di fatturato in questi settori così delicati deve metterlo in sicurezza. Non è stato fatto, e oggi questo comporta un danno per l'impresa, perché da fuori, rispetto ai valori a cui oramai è caduta, c'è chi obiettivamente tenterà di smembrarla e portarsela a casa a prezzi di realizzo, e credo anche purtroppo per l'Italia al mondo, perché i gruppi pubblici come Enel, Eni, sono i pochi residui gruppi pubblici italiani, pagheranno un prezzo come tutti quelli che lavorano sui mercati esteri di fronte al fatto che per l'ennesima volta veniamo rappresentati come un paese da pizza e operetta. Tutto questo, mi dispiace dirlo, per comprarsi qualche ettaro di terra in più poi per fare un vigneto, una roba di fronte alla quale i tecnici del settore, abituati a vedere americani che pagavano fior di tangenti ai sauditi ma per piazzare centinaia di piattaforme e velivoli nuovi, si piegano in due dalla risata. Questa è la mia opinione. Allora, invece, Galietti, come la pensa lei? Come si fa a, oltre che un libro, il suo si intitola, voglio ripetere i titoli dei due libri, sono quello scritto da Francesco Galietti, Alta pressione perché in Italia è difficile regolare le lobby, quello di Fabio Bistoncini è 20 anni da sporco lobbista, quindi comprate e leggeteli, ma c'è un paradiso per lei, sporco lobbista? Premessa, non sono un lobbista, sono un osservatore di lobbisti. Esatto. In tre anni nel palazzo io ho osservato le lobby in azione. Non ho praticato la lobby perché avrei dovuto fare una autolobby. Però qualche idea me la sono fatta e vorrei rassicurare l'ascoltatore anarcocapitalista, Alessandro da Ascoli, che cita Murray Rothbard, che io stesso leggo e apprezzo, perché provengo da un cenacolo anarcocapitalista e poi sono stato in partibus infidelium a Palazzo. La lobby è connaturata ai governi. la patria dell'anarcocapitalismo, gli Stati Uniti, non è immune, ma decisamente ce l'ha nella Costituzione. La parola lobby non è che la l'onda lunga della lobby dell'Hotel Willard, dove il presidente Grant riceveva suggeritori, portatori di interessi, e connaturata alle democrazie occidentali. Allora, io la devo interrompere, perché siccome è connaturata, il problema sarà quello di adottare magari albi e regole trasparenti di chi esercita questo mestiere, e abituiamoci tutti a credere che gli interessi esistono. Più li vediamo manifestarsi in trasparenza, più saremo in grado poi di giudicarli. Questa è la mia conclusione personale. Ci avviamo rapidissimamente ad aver consumato il nostro tempo, e quindi io dico viva i provvedimenti, però fateceli vedere e capire, cari tecnici. 5, viva il vero vertice, 9, appuntamento a domani. 9 in punto.